Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10 e 8 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero di corsa, no, nel senso che oggi abbiamo veramente tanti ospiti, tante cose da ascoltare, per cui facciamo velocemente le presentazioni. Intanto appunto ancora buona domenica, vi ricordo come sempre intorno alle 11.40 Miro in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa il catalogo della mostra che a Genova il biglietto d'ingresso, ammesso che riusciate ad associare una delle opere di Miro, che può essere una scultura oppure un dipinto, e alla canzone che sto per farvi ascoltare. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia. E questa tra l'altro era la canzone che abbiamo ascoltato già settimana scorsa, ma vi siete avvicinati ma non siete riusciti però a dire il titolo giusto dell'opera. Spero che ci riusciate almeno questa settimana. Il numero verde per prenotarsi anche da subito 800 24 0024. C'è una forma di spettacolo che io personalmente amo molto, l'amo fin da quando ero bambino, solo che in Italia non è che fosse facile vederla, almeno un po' di anni fa. In Italia c'erano le operette, per esempio, oppure i musical famosi scritti da Garinei e Giovannini. Oggi invece il musical prepotentemente abbraccia le scene di tantissimi teatri in Italia, offre anche molto lavoro ai performer. Di questo parliamo oggi, del musical. Life is a cabaret, old chum. It's only Ecco, devo dire una cosa, che il mio ospite, che saluto, che è Giuseppe Galizia, ciao, benvenuto. Buona domenica, buongiorno a tutti. Avesse avuto un cappello, se ne sarebbe tolto subito, appena scritto le prime note di Cabaret. Perché Liza Minnelli? Perché Liza Minnelli rappresenta, in quanto personaggio, in quanto voce, in quanto artista, in quanto interprete, non so quanti aggettivi potrei associare a questo personaggio, comunque rappresenta il musical, in tutto il mondo tra l'altro. Ecco, poi insomma, questa canzone è praticamente famosa anche perché è nato un film. È ovvio che quindi è stata più ascoltata rispetto ad altre. Ci sono invece musical che magari non sono mai diventati film, sì, e quindi sono un po' meno conosciuti. Allora, tu nasci come ballerino fondamentalmente. Esatto, danzatore. Diciamo così. Sì. E poi a un certo punto... A un certo punto nasco come ballerino televisivo e forse ci siamo incontrati, sì, anche io nei meandri e tu ballavi, della nostra carriera. Poi a un certo punto incontro il musical, che era un qualcosa di veramente sconosciuto in Italia, nel senso che nel 97 in Italia è stata fatta la prima audizione grossa, diciamo, per il musical, cioè per Grease, con Lorella Cuccarini in scena, Giampiero Ingrassia e poi la regia di Saverio Marconi. E niente, quindi mi presenta questa audizione e vengo cacciato clamorosamente alla prima audizione, e questo è stato il mio esordio. Cioè non ti vogliamo? No, più che altro perché io ero proprio un ballerino puro, non cantavo, non recitavo. Quando mi hanno messo questa parte in mano ero abbastanza impacciato probabilmente, è stato abbastanza ridicolo, però da quello ho detto, ma io forse voglio fare veramente questo nella vita, cioè questo che non so fare, che non riesco a fare, voglio coltivare quest'arte. E quindi da lì ho iniziato a prendere lezioni di canto, di recitazione e ancora danza, devo dire. Sì, che... infatti vediamo quali sono tutte le parti, perché poi un performer, perché così si deve definire, di musical, in effetti è tante cose, è uno etrino, poche parole, lo posso dire. Vabbè, onnipotente. Non proprio così, non esageriamo. Almeno tre qualità deve averle, assolutamente. Aggiornamenti sul traffico e poi rientriamo. Io so che c'è sempre chi storce un po' il naso perché sente il testo italiano di una canzone molto famosa americana. I musical nascono molto spesso negli Stati Uniti e quindi i testi sono originariamente inglesi, però... Si devono tradurre perché, e siamo molto d'accordo, penso, no? Sì, sul tradurre il musical in italiano, nel senso che, a parte i musical jukebox, ossia quelle compilation di musical che può essere, non so, Mamma Mia, canzoni degli ABBA, piuttosto che We Will Rock You, dove comunque è importante secondo me che le canzoni restino, no, nella lingua madre, perché tutta la gente le conosce come grandi successi degli anni 80, degli anni 90, eccetera eccetera. secondo me il musical, per arrivare più direttamente alla gente, al pubblico italiano, che spesso considera l'inglese ancora una lingua un po' ostica, secondo me deve essere tradotto, e se è tradotto bene come Grease, poi ha un grande successo. Anche perché le canzoni raccontano la storia, per cui è importante capirle. Questo perché, sì, sennò... questo infatti questo è il motivo per cui in tanti stati, Italia ma anche in Germania o in Spagna, vengono tradotti interamente i musical. Saverio Marconi, ciao, piacere, buona domenica. Ciao. Buona domenica a voi. Tu hai cacciato Galizia durante il provino di Grease, il primo. Ciao Saverio. Ciao. Allora, insomma, i meriti sono tantissimi di Saverio Marconi, a parte lui attore, lo conoscete, è regista, e poi ha portato il musical in Italia. Insomma, mai quando si dice musical in Italia si dice Saverio Marconi, per tantissimi aspetti. E tu sei di nuovo in scena, cioè tu in scena nel senso tu non sei in scena, ma sei di nuovo con Grease a teatro, sì. Vero? Che lo porterai, sì, ancora dopo quanti anni di repliche? 15 anni. Con un cast che continua a cambiare, ovviamente. Che cambia, sì, sì, sì, un cast che cambia, e questo è l'ultimo, tutto giovani, grintosissimi, perché è una cosa che è successa in tutti questi anni, da quando abbiamo iniziato con i musical, quindi dall'88, il livello degli interpreti è veramente molto molto salito. Ecco, e proprio di questo volevo parlare, poi lo farò anche ovviamente con Giuseppe. Volevo capire della qualità, cioè i nostri performer sono sempre più preparati, perché all'inizio non c'erano proprio, non c'erano neanche scuole che preparavano, no? No, all'inizio proprio no. Guarda, noi abbiamo fatto Piccola Bottega, che era un piccolo, sì, musical, dove c'era appunto Giovanni Ingrassia, Di Angelillo, insomma c'erano diverse persone bravissime, quindi potevo farlo. Quando abbiamo deciso di fare Chorus Line, che è stato il musical che praticamente ci ha lanciati, e lì abbiamo detto: se ci riusciamo a farlo andiamo avanti perché troviamo un interprete, altrimenti aspettiamo perché è inutile. E lì li abbiamo provati e abbiamo lavorato per 2 mesi, proprio sembrava più una scuola che non delle prove, ecco, e da lì in avanti tutto è cambiato. Ecco, senti Saverio, a questo punto lo so che è una domanda che ti faranno tutti, però te la devo fare, nel senso, visto che comunque molti artisti, ballerini, cantanti vogliono provare a fare il musical, che cosa, come devono prepararsi per poter poi affrontare oggi un casting? Perché 10 anni fa è diverso, 10 anni fa non c'erano forse le capacità che ci sono oggi, non erano così preparati, oggi invece la competizione credo che sia molto più forte. Molto, molto più forte, sì, sì, per una volta insomma si accettava già una persona che era intonata, insomma, perché bastava quello per poter andare avanti. Oggi non è più così. La prima cosa, sono 2 cose fondamentali, che sono veramente fondamentali per presentarsi. La prima è essere attori, sì, perché non è che nel musical non si reciti, quindi la prima cosa bisogna essere attori, quindi bisogna studiare recitazione. Seconda, bisogna saper cantare, l'altra cosa è fondamentale, essendo un musical, musicale, sono le 2 cose fondamentali che bisogna saper fare per affrontare un musical. Poi per il ballo esiste sicuramente sapersi muovere, quindi frequentare scuole di danza, però non è indispensabile essere ballerini. Ecco, infatti, per cui dicevamo bisogna essere uniettrini, no? Perché in realtà sono, sì, 3 le qualità che bisogna mettere a punto nella propria, sì, nella propria la prima, vita. La, sì, prima è proprio recitazione. La recitazione prima di tutto. Ecco. Adesso noi abbiamo visto un esempio, c'è, cioè un, sì, esempio molto lampante adesso di questo film che uscirà, che è I Miserabili, sì, dove ci sono delle star, superstar, e tutte cantano benissimo, quindi sono tutti attori che cantano molto bene. Ecco, un esempio è stato Mamma Mia, il film, no? Dove, sì, forse c'era un Pierce Brosnan che non era straordinario come cantante, però ci sta, perché quando il personaggio è giusto e recita in un certo modo, anche se il cantante non è perfetto come tu lo aspetteresti, però è capace, cioè riesce comunque a dare, perché il cantare diventa parte della personalità, no? Certo, dico bene. Ma fra l'altro il cantare nel musical è una cosa, cantare come cantante è un'altra cosa. Quindi si canta recitando, quindi è diverso. Sicuramente magari non è un cantante pop da fare una compilation oppure fare un suo disco, però sicuramente riesce a interpretare la cosa. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Allora, mi introduco, Putin on Verizia, io non so niente di quello che succederà perché lo vedremo penso da gennaio in scena, Frankenstein Junior. Sì, da un fine ottobre a Roma e poi da gennaio. Ok, ecco già qua. E cosa succede di Frankenstein Junior? Come, cosa ti è venuto in mente? Cosa hai combinato? Guarda, è stato stiamo ancora lavorando, dobbiamo ancora debuttare, ma... La cosa è molto divertente, ovvio. Io ho già fatto di Mel Brooks The Producer. Sì. E ricordo quella volta che quando abbiamo chiesto i diritti ci hanno chiesto qualsiasi cosa, i bozzetti delle scene, dei costumi, la traduzione delle canzoni, qualsiasi cosa, perché doveva essere approvato tutto. Questa volta poi Mel Brooks è venuto a vederlo sì. a Roma e questa volta invece non ci hanno chiesto niente, ha detto fate voi. Quindi, beh, questa è una grande soddisfazione. Sì, vero, questa è veramente una grande soddisfazione perché io ho portato delle modifiche, ho fatto delle cose per, sul testo di Broadway. Sì. Mi sembra di aver fatto un lavoro abbastanza interessante. Lo spettacolo è divertente, è ovvio. Tutti conoscono il film. C'è un umorismo molto particolare, quello di Mel Brooks proprio, che a me personalmente fa morire dal ridere. Gli interpreti sono bravissimi perché c'è un cast eccezionale, quindi speriamo bene. Insomma. Sicuramente sarà così. Senti, Putin on Verizia, l'avete tradotta in italiano anche questo o l'avete lasciata in inglese? No, l'abbiamo lasciata in inglese perché questo è un numero che fanno. Esatto, quindi... non si può. Non avrei neanche saputo come... come adattarlo, esatto. Saverio Marconi, io ti ringrazio molto e per tutto quello che fai e per il musico che hai portato in Italia. Grazie. Grazie a voi. Buona domenica, ciao. Dico bene, Giuseppe? Esattamente. Meno male che c'è. Allora io vorrei introdurti, adesso ancora meglio, con questa canzone. In effetti in italiano è stata tradotta ed era La strana sensazione. La strana sensazione. Questa è Chorus Line, citato anche prima da Saverio Marconi, tu ne facevi parte. Sì, ho fatto parte dell'ultima edizione di Chorus Line, sempre con la regia di Saverio Marconi. Quindi prodotto Arancia, un bellissimo musical. Dicono il musical dei musicals. Questo, ecco, è vero, infatti di questo volevo parlare, perché... E Chorus Line racconta la storia di chi riesce a superare la difficile selezione per arrivare poi a far parte addirittura della linea, per cui neanche il ballerino principale, ma semplicemente. Però è un musical che piace molto agli addetti ai lavori. Esatto. Ecco, un po' meno forse agli altri, perché diciamo che noi ci divertiamo tanto a farlo. Poi spesso il pubblico che viene per divertirsi trova che scopre che Chorus Line invece è un musical dove ci sono tanti drammi, no? Magari microdrammi, però c'è una storia comunque dove viene ripercorsa un po' la vita del performer, cioè questo essere sempre pronti, fare le audizioni, cantare, mettersi alla prova. Che io volevo sapere, siccome quella è una realtà molto americana, quella di Chorus Line, quanto c'è di simile in Italia oggi, quando si fa un'audizione, quando mano a mano si va avanti, quanta personalità e drammi appunto escono anche davanti a un'audizione appunto al regista? Guarda, dipende sinceramente dal tipo di audizione. Se le audizioni diciamo canoniche in Italia sono fatte appunto come diceva Saverio, si parte dalla recitazione o dal canto e poi per arrivare alla danza, perché bisogna essere veramente dei fortissimi cantanti adesso o dei fortissimi attori. Spesso non c'è il tempo di conoscere veramente le persone, lo si fa in un secondo momento. Infatti le audizioni, diciamo, la prima chiamata come la chiamiamo noi è oceanica, cioè 600, 700 persone, 1000 persone, e poi ci sono i callback. Allora dalla una prima chiamata con questa popolazione, no? Dove ci sono sia tutti i ragazzi che vogliono fare questo lavoro, che escono dalle accademie, ma ci sono anche tanti spesso spesso tanti amatori o tanti curiosi che vengono a provare. Ecco, questa non è una cosa positiva, nel senso che il musical non si prova, è proprio un lavoro. Ecco, oggi spieghiamo infatti questo. Saverio l'ha detto prima, ma lo ribadiamo, e anche perché tu ne sei la dimostrazione. Appunto, nasci come ballerino, poi hai detto no, io ho dovuto cominciare a formarmi anche come cantante e come attore, perché sennò mai avrei potuto continuare a calcare le scene, perché la forza di Giuseppe è il fatto che continui a essere in scena, è questa. Da 50 anni. No, 50 anni no. Davanti dietro le quinte, anche perché ovviamente poi chi fa questo mestiere si appassiona anche al backstage, così. È proprio piccolo, uno coltiva altre cose. Come al solito. Ecco, diciamo che oggi bisogna essere preparati, non si può fare altrimenti. Preparati, e per fortuna esistono delle accademie, adesso in Italia, e come dire, le accademie ti danno un'infarinatura, poi è ovvio che in 2 anni di accademia o 3 anni uno non diventa un performer provetto, diciamo così. Poi bisogna continuare a studiare, è un lavoro da continuare. Come dicevi, è un vero e proprio mestiere, non ci si può improvvisare, non più. Forse all'inizio uno poteva anche provarci, oggi assolutamente no. E Chorus Line è proprio la storia, la nostra storia, di questo lavoro continuo, di sostenere le audizioni, di essere sempre preparati, e poi piacere al regista, ovviamente, che ti sceglierà per fare questo lavoro. Bisogna andare bene anche per la parte, cioè essere giusti per una parte che gli verrà assegnata. La pubblicità, e poi torniamo a parlare proprio delle scuole di musical. Ovviamente le canzoni dei Queen, a parte forse una, Radio Gaga è stata tradotta, le altre no, sono state tenute in inglese. Sì. Ecco, ci sono casi in cui la canzone deve rimanere tale, non si può tradurre, anche perché non serve. Sì, la prima, Radio Gaga è stata tradotta semplicemente perché dava, diciamo, l'input, l'inizio, insomma, la storia. Traduzione, ma un po' così. Ovvio che certe canzoni, soprattutto quando si parla di Queen, sentirle come sono in inglese. Voi siete stati molto bravi a portare in Italia un musical che qui è rock, più difficile, perché le canzoni di Queen sono difficili da cantare, sono avere grandi qualità vocali, ed è stata una grande soddisfazione. Sì, credo. Una grande soddisfazione, anche perché i Queen stessi si sono complimentati. Avevamo Brian May alla prima sul palco e Roger Taylor, quindi è stata un'emozione per tutti, e sono quei momenti della vita in cui, insomma, dici, ma quando mi ricapita, no? di condividere il palco con Brian May. E sì, loro hanno detto che il cast italiano era assolutamente all'altezza di quello inglese, che è il primo cast in assoluto, perché We Will Rock You in Italia ha avuto una vita di 2 anni, e a Londra da 11 anni, 12 anni, 15 anni, non lo so. Lì la cultura del teatro, del musical, è molto diversa, per cui riescono a stare così tanto. Senti, quando hai ricevuto i complimenti da Brian May, ti sei tolto la parrucca o l'hai tenuta? Perché avevi una parrucca con i capelli lunghissimi, diciamo subito. È la parrucca più improbabile che io abbia avuto nei musical che ho fatto, una parrucca bionda con una ricrescita mora. No, l'ho tenuta. L'hai tenuta, hai avuto questo coraggio. Sono stato nel personaggio. Shona Farrell, ciao, buona domenica. Salve, buongiorno a lei. Parlavamo di scuole e di musical. Tu hai fondato la prima, fondamentalmente, scuola di musical in Italia. Siamo a Bologna, il Bernstein School of Musical Theatre. Perché hai avuto questa idea? Dici, qui in Italia ci vuole, bisogna preparare gli artisti. Partite un po' casualmente, non casualmente, ma comunque abbiamo visto, io ho fatto un masterclass alla scuola del Teatro Colli di Emanuele Montagna con 16 dei suoi giovani attori che erano fantastici, incluso la Graziana Bocciani, che ormai è lanciata molto in Oblivion. E ti sentiremo dopo. Li sentiremo dopo gli Oblivion, tra l'altro. Li fantastico! Come ecco. E poi sono in scena oggi, fantastico. E infatti, facendo questo masterclass con loro, ci siamo resi conto, facendo musical, perché cosa fai con giovani attori? Proviamo a fare questo. Ed è stato davvero, davvero una cosa bellissima. Ci siamo resi conto che non c'è niente di questo tipo in Italia. Perciò questo era il 92 e il 93, appunto. Abbiamo aperto il corso scuola di musical a Bologna, e poi dopodiché dopo un anno mi sono andata da sola con Bernstein proprio. Ecco, Shona, tu hai visto cambiamento anche per chi si propone, per esempio? Cioè, le persone che vengono per proporsi e cominciare a studiare sono più preparate rispetto al passato? È uguale? Non è cambiato niente? O meno? È cambiato in che l'età generale sì. è molto più bassa. Nel senso che prima erano 24, 25, addirittura 30 anni che si presentavano per fare questo corso di 3 anni, cioè non è poco, e adesso sono 20 anni, che è giusto da una parte. Dall'altra parte perdiamo nella maturità, nella consapevolezza di vita, perdiamo da una parte mentre siamo dall'altra parte giusto in tempo a formarsi, perché anche chi arriva a 19 anni, specialmente a voi, se è portato riesce a diventare ballerino, se è oltre 21, 22. Sì, ecco, per la danza bisogna cominciare presto per forza di cose. Sì, infatti sì. Molti ballerini, per Giuseppe un esempio, nascono da ballerini da quando sono piccoli e poi si preparano poi per il musical. E le altre cose, assolutamente. Shona, c'è molta richiesta, più del passato ovviamente, ci sono anche più produzioni, quindi più speranza anche di lavorare, giusto? Sì. C'è, secondo me ci sono tante cose che siamo in grande fermento. Bene. C'è ovviamente una crisi che lo sentiamo anche noi nel nostro settore. Stranamente la scuola quest'anno, stranamente dico, e grazie a Dio, che sta andando molto forte, molto bene, bacio i gomiti, però io lo so che comunque dappertutto c'è questo un po' problema di crisi che è mondiale ormai. Certo, però bisogna prepararsi per un mestiere, per cui assolutamente, ma c'è più serietà in generale. Questo ci fa piacere. Sì, è questo. Ancora c'è da lottare un po' con la mentalità che è un divertimento, allora non è un lavoro, invece è un duro lavoro, e chiunque che fa una scuola, qualsiasi scuola, si rende conto, non è una passeggiata. E infatti quelli che poi lo capiscono e non vogliono portarlo avanti lasciano in fretta, e i 3 anni non durano assolutamente l'accademia. Infatti, grazie Shona Fare, buona domenica. Grazie. Giuseppe, salve. Torniamo a te, perché su Facebook, per esempio, vi ricordo la pagina di Facebook del Riposo del Guerriero, scrivono, Mauro dice, però in Italia vengono messi in scena quasi sempre con le basi, non con il supporto di un'orchestra, non è proprio così. Beh, non è, diciamo che, guarda, in questo momento in Italia, anzi a Milano, proprio oggi ci saranno 3 spettacoli, uno è La Febbre del Sabato Sera, scusate, l'altro è Shrek e l'altro è Priscilla che mi vede in scena. Parrucca su a Priscilla? Varie, parecchie, devi venire a vederle. E sono tutte e 3 con l'orchestra, cioè anzi con la band, perché ormai diciamo l'orchestra è per i musical classici, la band invece, cioè vuol dire un'orchestra di 7-8 elementi più alcuni suoni ovviamente registrati al computer, perché senza tecnologia non andiamo da nessuna parte, però quindi devo un po' smentire questa affermazione. Ovvio che poi in tournée spesso succede che alcuni musical poi vengono portati con le basi, ma spesso proprio perché non c'è neanche il, a parte una questione economica ovvia, ma spesso neanche il posto fisico dove alloggiare l'orchestra in un teatro quando si va in provincia, per esempio. E quindi quello è un vero problema, poi però, alla fine, certo, certo. Seduti in platea. Ma io e noi abbiamo fatto spettacoli, mi ricordo Flashdance, con l'orchestra che stava nei camerini e che alla fine del musical salivano sul palco e la gente diceva, ma c'è l'orchestra dal vivo, sembrava un CD. E dire che questo è uno dei più bei complimenti che possa essere fatto appunto a una produzione, perché vuol dire essere perfetti poi alla fine. Ecco, io tra l'altro, così pensando al musical, no? In generale, e al fatto che è vero, c'è l'orchestra, penso anche ai costi, cioè produrre un musical costa tanto, siete tanti in scena, c'è l'orchestra dal vivo. Produrre un musical costa tanto, non solo, e per recuperare una produzione, ecco, lì volevo arrivare a quello, sì, deve stare in scena per forza almeno 2 anni, perché il primo anno se va bene si recuperano, titolo, i costi. Si recuperano i costi, il secondo anno forse in generale, poi tu lo vedi insomma, perché poi si apre il sipario, diciamo, il pubblico il ve lo vedete anno, la tournée quella vera e propria, perché il primo anno si fanno le grandi città, poi il secondo anno si va in giro e nel secondo anno magari arriva qualche guadagno, ma non è detto. quindi insomma anche il costo del biglietto, no? Perché quello che frena sempre un po' è quello, però ci sono mille promozioni poi normalmente, esatto, basta esatto, cercarle. Esatto, no? Io devo dire, sì, basta cercare, comunque i teatri devo dire che in questo momento di crisi stanno avendo incontro al pubblico che deve pagare un biglietto, sì, però ecco, io sappiate... Io direi che andare al cinema e spendere 10 euro, andare a vedere un musical e spenderne il doppio, cioè 20, sì, ci sta. Ci sta. Ecco, sappiate che i performer non sono ricchi, cioè non è che si guadagnano delle cifre, anzi è una vita difficile. Non aprirei questo argomento. No, invece vorrei proprio aprirlo, perché è una vita difficile. È una vita difficile, è un lavoro che tu scegli per passione, sì, non per altro, non di certo per far soldi, ma anzi per questa grande passione che ti brucia dentro, che non è soltanto voglia di stare sul palco, ma è voglia di unire i tuoi talenti artistici e vivere di quello fondamentalmente ed emozionarsi. Questo è per quanto mi riguarda è il motivo fondamentale per cui continuo a fare questo lavoro. Io riesco ad emozionarmi ogni giorno, ogni replica, quando salgo sul palco, anche quando ho doppio spettacolo come oggi. Per cui questo è la cosa che è l'unica molla che spinge a farlo, ma in generale il lavoro dell'artista è proprio quello. Simone Nardini, ciao, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a tutti. Ecco, parliamo invece di un'altra scuola, siamo a Milano questa volta, che è l'MTS e il Musical The School, altra scuola di musical, devo dire il grande successo, e che ha sfornato talenti. Sì, sì, diciamo che il nostro impegno, il nostro lavoro è stato premiato in questi anni dai risultati che hanno ottenuto tanti dei nostri allievi, tanti dei nostri diplomati. Ecco, anche per te vale quello che aveva detto prima Shona, cioè che l'età si è abbassata delle persone che vengono a imparare insomma quest'arte, oppure non so, la realtà milanese magari è diversa? Ma noi abbiamo gente che arriva da, non solo da tutta Italia, diciamo da tutta Europa, sì, per cui non possiamo essere definiti puramente una realtà milanese. Certo. In quanto all'età, insomma, sì, diciamo di sì. Fino a che età, secondo te, si può decidere di frequentare una scuola di musical? C'è uno stop? Metteresti un paletto, una barriera? Allora, in teoria noi abbiamo un paletto, una barriera, che è quella intorno ai 25 anni. Però non dimentichiamo che Gene Kelly ha iniziato a 30 anni. Quindi tu dici c'è sempre una possibilità. No, non si può limitare un artista, sicuramente un giovane ha delle capacità di apprendimento maggiori rispetto a chi ha qualche anno in più. Chiaro, però tu dici alla fine della fiera, se uno ha qualche talento, imparare a recitare degnamente e cantare, si ha chiaramente la qualità e la capacità di farlo, l'età non conta, anche perché penso che un po' di ruoli ci siano dedicati anche a età un po' superiori, o mi sbaglio? Esatto, e spesso non si riescono a trovare. Quindi paradossalmente le età cercate sono proprio quelle oltre, diciamo, i 35, possiamo esatto, dire così. Esatto. Ecco. Io volevo aumentarla anche quell'età, Giuseppe mi stava guardando, però tu sei un esempio. No, io sono dentro questa. Sì, sì, sei tra i 25 e i 35, certo. Simone Nardini, complimenti per la MTS e niente, andate avanti e continuate a sfornare talenti, mi raccomando. Grazie, un saluto a tutti e volevo fare, sì, un saluto a un nostro docente, Simone Leonardi, che ieri ha ritirato il premio Massimini. Ecco, diciamolo, spieghiamolo un attimo questo premio, prima della viabilità, perché è un premio molto importante. Sì, sì, sì, è un premio sicuramente importantissimo, è il premio più prestigioso che possa esserci, secondo me, in Italia. E, si svolge ormai da tantissimi anni. E niente, io credo che poi avrete un collegamento anche con sì, Simone. Sì, dopo, no, non riusciamo a sentirlo perché ha voluto dormire questa mattina, perché ha fatto tardi, è arrivato stanotte, ha viaggiato, però insomma, parleremo sicuramente del musical e anche di lui, visto che ne è il protagonista. Grazie Simone Nardini, buona domenica. Grazie a voi, grazie a tutti, buona domenica. Gli aggiornamenti sul traffico, torniamo poi a parlare di musical. Benvenuto in Avenue Q. Avenue Q è stato un po' un esperimento, nasce a Broadway, anzi in off-Broadway, mm-hmm, e comincia un po' in sordina, come spesso succede nei teatri, è stato per Hair così. Sì, ecco, sì, poi. Nasce come spettacolo off-Broadway, poi invece passa a Broadway, poi adesso è a Londra anche nel West End. E in Italia è stato fatto da un cast meraviglioso, una regia meravigliosa. E cosa è successo poi? Io non so esattamente, però è che spesso gli spettacoli un po', tra virgolette, di nicchia, spesso restano di nicchia in Italia. È stato tradotto benissimo. È adattato benissimo, veramente molto bene. Il cast era eccezionale e ricordiamo che cantavano e recitavano insieme a dei pupazzi. Sì, esatto. Il musical ha come protagonisti metà pupazzi e metà personaggi reali. Eppure il pubblico è andato, è stato graditissimo, cioè chi è andato a vedere lo spettacolo è rimasto, l'ha visto anche più di una volta, però alla fine non è riuscito a replicare, insomma, andare oltre, penso, l'anno e mezzo, una cosa del genere. Sì, esatto. Ma probabilmente proprio per il titolo, nel senso che il titolo non è certo accattivante, non c'era nessun... è stato fatto in Italia, penso, 4 anni fa, non c'era nessun VIP sul palco, perché abbiamo già passato questa fase. Arturo Brachetti l'ha promosso perché ne aveva curato, sì, l'allestimento dei pupazzi. Sì, per esempio, ha rifatto i pupazzi, cose, sì, in modo meraviglioso. E quindi per dare un po' di visibilità. Ecco, perché in Italia c'è ancora bisogno di quello, no? Diciamo di ni, nel senso che spesso il titolo vale è fondamentale. Il titolo è fondamentale in Italia e quando si prendono, per questo spesso vengono presi questi titoli americani, Frankenstein Junior, Priscilla, La febbre del sabato sera, e vengono poi messi in scena con grandi regie e con grande dispendio, ma proprio perché il titolo è fondamentale. Il VIP sul palco direi che in questo momento, nel 2012, è accessorio. Questa è una bella notizia, però, perché in Italia non so quanto fosse così fino a qualche tempo fa. Non è stato così, non vogliamo rispolverare questi altri tempi. Ma guarda, sono veramente contento perché ho tantissimi colleghi che come me fanno questo lavoro da anni e che sono protagonisti adesso dei musical sopracitati e che sono strepitosi e... Vale la pena andare a sentire, a vedere. E poi ovviamente quando uno va a vedere uno spettacolo come Priscilla o come La febbre del sabato sera, insomma, uno viene attirato dalle musiche, dalla storia e poi da costumi, scenografie, insomma il musical è tutto questo. Per questo è molto difficile, molto dispendioso, però il pubblico deve andare a divertirsi. Ci sono dei musical invece dove la musica farà da padrone e sono delle vere e proprie opere. Sì, rock, ecco, esatto. La prima forse il nome per eccellenza è Jesus Christ Superstar. Esatto. E Jesus Christ Superstar ha vissuto in Italia anche lui è stato un musical secondo me estremamente ben tradotto, mm-hmm, adattato straordinariamente bene con delle voci strepitose. E adesso però ci manca una cosa così. Io ti sono accanto, ma non è per sempre. Soffrirai dopo la mia morte, piangerai. Come avevamo un Simone Sibillano e un Edoardo Luttazzi, che erano degnissimi, lo sono tuttora, di interpretare le voci, sì, appunto, di Giuda. Due voci straordinarie, Gesù. Due talenti sul palco. Aggiungere anche Valentina Gullace, sì, Maria Maddalena strepitosa. E un musical che secondo me ha segnato comunque la storia, diciamo, del musical italiano, con questo allestimento di Fabrizio Angelini, sì, che ha curato la regia. È abbastanza innovativo, forse alcuni l'hanno giudicato un po' troppo innovativo, perché si staccava, diciamo, dalla versione che tempo fa aveva girato in Italia con Carl Anderson sul palco nel ruolo di Giuda. Però secondo me in Italia bisogna veramente ogni tanto provare, nel senso... Anche perché lì è stato rifatto completamente l'adattamento e devo dire con un risultato straordinario, perché anche loro poi hanno dovuto subire, tra virgolette, l'ascolto di Lloyd Webber, cioè l'autore, certo, che hanno dovuto addirittura tradurlo in italiano, la versione italiana ritradurla in inglese per far capire a Lloyd Webber se fosse andato bene, e lui l'ha approvata immediatamente. Ecco, però lì forse, non lo so, è una mia, così te la butto lì, se mancava il nome per cui la gente, oppure la paura di sentirlo in italiano, Jesus Christ che è così conosciuto in inglese. Adesso da spettatore conosco tanti spettatori che non vanno a vedere i musical tradotti in italiano. Eccolo lì, volevo arrivare a e quello. E che dicono io piuttosto preferisco prendere un aereo e andare a Londra piuttosto che a New York e guardare i musical originali. Va bene, ma quella è un'altra cosa. Sì, esatto, un'altra cosa. sì, dicono... Beh, dipende, insomma. Però secondo me è ovviamente un pensiero, non bisogna essere molto prevenuti e io invito appunto come a provarci ad andare in teatro, a guardare, a spendere quei 10 euro in più di un cinema per andare a teatro ed emozionarsi, perché comunque italiano, inglese, tedesco, cioè il genere musical è un genere che comunque ha un grande impatto sul pubblico, primo perché è comunque uno spettacolo pieno di colori solitamente, pieno di storia, pieno di personaggi e poi pieno di emozioni. Ecco, più del talento. Io aggiungerei questo. C'è il GR e poi torniamo a parlare di musical. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi: 349-238-6666. Le 11:07, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero. Oggi stiamo parlando di musical. Voglio ricordarvi anche verso le 11:40 Miro in 24 minuti. Le posso riportarvi a casa il catalogo della mostra a Genova, il biglietto d'ingresso, ammesso che riusciate ad associare alla musica, le canzoni che vi farò ascoltare, una delle opere di Miro. Il numero verde per prenotarvi 800 24 00 24. Giuseppe, io ti leggo qualcuno degli sms che sono arrivati. Per esempio, uno dice: ho più fiducia nelle recensioni di semplici consumatori che in quelle dei professionisti che, vivendo di questo, possono essere facilmente influenzati. Nella storia del musical italiano resterà, aggiungi, un posto a tavola, non solo per la bravura dei medici interpreti, si riferisce ancora a Dorelli, Pannelli e Valori, quindi non so quanti anni fa, una trentina d'anni fa, insomma, dal cambio scena con piattaforme rotanti, allora innovative, lo scrivotina. Parliamo probabilmente del capostipite della commedia musicale italiana, forse. Cioè, un musical che comunque noi siamo un po' cresciuti con questo musical. Invece le cose sono un po' cresciuti in due sensi. Esatto, nel senso che aggiungi un posto a tavola è un motivetto che, cioè, come dire, anche se è relegato in questo ambito teatrale, comunque tutti cantavano, sì. No? Mi ricordo, io direi che la commedia italiana si è evoluta, nel senso che Garina e Giovannini in Italia hanno creato uno stile che è proprio quello della commedia italiana che non c'è nelle altre nazioni, nel senso che poi si parla di operetta, poi sì. Ci sono tanti generi, ma il musical si è evoluto, sono arrivate queste produzioni, cioè c'è altro oltre a un posto a tavola. Siamo andati a Brodio, abbiamo visto queste cose magnifiche, le abbiamo volute portare in Italia e ce la stiamo facendo, devo dire che poi gli allestimenti sono sempre più belli. Ecco, tra l'altro io così dico che ho rivisto Aggiungi un posto, purtroppo devo dire ho rivisto, nel senso che l'ho visto anche quando c'è stata la prima versione, però ho rivisto anche la seconda l'anno scorso, credo 2 anni fa a Milano, con il figlio di Dorelli ovviamente, e l'ho apprezzato molto, però l'hanno rifatto proprio identico alla versione originale. Sì. Un altro messaggio dice: sono stato a Londra a settembre e ho visto Billy Elliot, che emozione e che bravura, ma noi abbiamo giovani attori così intensi sul palco? Scrive Valeria. Sì, ci sono. No, lo posso dire perché... E lo dobbiamo dirlo, è vero. Io sono anche un insegnante di danza e di teatro e io ho dei giovani talenti proprio di 12-13 anni che tra l'altro non hanno iniziato oggi, nel senso che da quando, dall'età dei 7-8 anni hanno cominciato a studiare danza, e devo dire che sono molto fiero per due persone in particolare. Uno è il bambino che tra l'altro che è in Priscilla con noi, che fa lo spettacolo con noi, che... Ha iniziato a fare un campus di musical estivo, e in questo campus io l'ho conosciuto. Lui un giorno mi ha detto: io voglio fare l'attore da grande. Il giorno dopo è uscito il provino di Priscilla e siamo andati insieme a fare. Io l'ho portato e abbiamo fatto insieme il provino di Priscilla. Morale, questo bambino l'hanno scelto insieme ad altri 3 bambini. Perché ovviamente, ecco, i bambini cambiano. Anche Billy Elliot a Londra cambiano. Sì. Sono 2 o 3. Sono che di si solito alternano. Minimo 3. In Italia su 8 spettacoli. poi bisogna avere perché non quattro possono, bambini. Sì. Perché non possono, se no perdono una scuola, insomma ci sono vari problemi, sì. Giustamente sono minori. Infatti è molto difficile in Italia fare lavorare i minori. Sì. Mentre a Londra spesso si vedono queste produzioni con solo bambini in scena, tipo Oliver Twist, tipo Matilda, che è un altro titolo che sta spopolando a Londra. Però hanno più cast insieme, ecco, perché devono proprio a rotazione devono lavorare. Sì, comunque ci sono e la cosa importante per un, adesso mi metto dalla parte degli insegnanti e dei docenti, sì, è capire il talento che hai davanti, perché spesso è difficile. Nel senso che spesso questi bambini hanno proprio una propensione, cioè un'attitudine naturale proprio alla recitazione, alla danza, al canto, e l'importante è scoprire e poi se loro vogliono, se loro chiedono io voglio fare questo, anche trovare delle strade per loro. Ecco, voi trovate delle accademie serie, insomma ce ne sono tante e quindi assolutamente informatevi. Omeopatia, prendi fiori di Bach, non si cura lo stress. Bevo pipì e divento new age, non si cura lo stress. Scusatemi, non potevo non far sentire bevo pipì e divento new age, perché... Ma come siete scemi? Ciao Fabio Bagnarelli, buona domenica. Ciao, grazie mille. Lo so che è un complimento, ovviamente. Ma no? Assolutamente, lo sai, eh. È un orgoglio incredibile. Allora, gli Oblivion, ma senti, tutti siete un po' nati anche dal musical? Penso, ma no? Noi siamo assolutamente nati dal musical, infatti stavo ascoltando le vostre interessantissime disquisizioni sul musical, ma volevo informarvi che l'era del musical con gli Oblivion è finita. Oh, cioè, ecco, diciamolo. Il superamento del musical, è vero. Diciamolo, perché voi come siete, tutte siete le oltre, battaglie siete oltre. L'abbiamo combattuta da dentro, abbiamo fatto parte di vari musical negli anni, a un certo punto abbiamo decretato la fine del musical e l'inizio dell'era degli Oblivion, è come l'era dell'acquario. Ecco, no? Cos'è che esatto? Cos'è che è nato con l'era degli Oblivion? Siamo Oblivion Show 2.0, il sussidiario, quindi il seguito dello spettacolo l'anno scorso, e grande successo, siete in giro per tutta Italia, poi andate sul sito per vedere le date perché sono tante, io le elenco ma non posso chiaramente leggerlo tutto. E cosa è cambiato? Cos'è che avete portato? Tutto è cambiato. Ma innanzitutto, tu dicevi prima, siamo andati noi italiani a Broadway a vedere i grandi allestimenti, poi uno viene a vedere Oblivion Show e c'è una panca e un pezzo di legno, 50, anzi tipo 250 cappelli di carnevale, quindi già questo è un cambio abbastanza sostanziale dell'era degli Oblivion, quindi noi abbiamo inaugurato l'era della spending review nel musical, cioè fare un musical veramente con... Quattro stracci e poco più. No, in realtà il nostro è un lavoro che parte dal musical, però c'è cabaret, c'è comicità, è un po' una commissione di generi, c'è parodia, partendo dai Promessi Sposi in 10 minuti in poi, e c'è un insieme di riferimenti della cultura italiana, della musica italiana, riarrangiati, presi a cazzotti, fatti in una maniera strana, con parole che unite insieme danno degli altri significati, canzoni con parole cambiate. Quindi questo è un po' il nostro linguaggio, e il nostro spettacolo è un musical sui generis, nel senso che non c'è una storia, siamo noi che entriamo ogni volta a fare i scemi, come dicevi tu prima, in varie situazioni diverse. Ecco, devo dire che avete dei testi molto molto divertenti, che sono assolutamente vostri, il vostro cabaret è molto divertente e anche particolarmente intelligente, e quindi io veramente consiglio di vedere il vostro spettacolo, anche perché si esce cresciuti, non solo divertiti ma anche cresciuti, perché toccate anche dei temi di grande attualità. Uno ha un'ora e mezzo in più rispetto a quando è entrato. Senti, lo so che tanti vi hanno paragonati ovviamente al quartetto Cetra, anche se siete un quintetto, però loro secondo te hanno insegnato molto da questo punto di vista? Ma assolutamente, sono i nostri maestri in assoluto, e ovviamente se un giorno qualcuno chiederà a loro in qualunque posto che ci siano in questo momento se ci conoscono, diranno di no sicuramente, perché abbiamo li faremmo un po' vergognare, però loro sono nei nostri cuori e sono il nostro riferimento principale, soprattutto per quel modo di fare comicità con il garbo, l'eleganza, senza andare a calcare l'acceleratore su delle volgarità gratuite o cose di questo genere. Quindi questo è un nostro faro molto molto importante, e poi soprattutto il canto in armonia. Noi siamo nati come gruppo intorno all'idea del canto in armonia per fare comicità, che è proprio un po' la loro cifra stilistica. Poi ovviamente loro hanno vissuto in un'epoca storica di un certo tipo, con dei riferimenti culturali e musicali di un certo tipo, e noi in un altro, quindi abbiamo fatto Cetra a modo nostro. Giusto così, i tempi sono cambiati e voi siete cresciuti, avete portato, diciamo così, Cetra a un livello oblivion, no? Quindi un livello superiore e diverso. E poi devo dire anche questo, i Cetra hanno avuto grandissimo talento, grande fortuna, ma insomma è talento sicuramente, però c'era la televisione e pochissimi canali, solo il primo e il secondo, e tutti quindi vedevano questo. Oggi è molto più difficile farsi conoscere. Voi avete usato lo strumento che è internet, grazie ai Promessi Sposi in 10 minuti avete cominciato a farvi conoscere. Adesso c'è anche Avatar, addirittura in 6 minuti avete ridotto i tempi anche di Avatar, però sì beh, è sempre una corsa al rilancio, quindi non so cosa succederà prossimamente, forse Guerra e Pace in 2 minuti. Però è un po' difficile da fare perché abbiamo solo 2 personaggi, Guerra e Pace. Noi siamo in 5 e bisogna fare un casting. Va bene, allora parteciperemo al vostro. Grazie davvero, Bagnarelli. Salutami tutti gli altri 4, ovviamente. Va bene, vi aspettiamo in teatro. Oblivion Show 2.0, il sussidiario Oblivion per internet, e vedere le date subito, gli aggiornamenti sul traffico. Antonello Angiolillo, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica a te. Anche a te, visto che tra poco sarai in scena con Priscilla, Regina del Deserto, c'è qua anche Giuseppe Galizia in studio. Ciao Antonello. Ciao Giuseppe. Sei già sveglio, eh. Allora, insomma, anche Antonello nasce come danzatore. Sì, sì. Poi cosa è successo? Come danzatore, perché volevo fare sport, ma non mi andava di fare le solite cose che facevano tutti, da pallacanestro, pallavolo, e quindi mi sono buttato sulla danza. Anzi, in realtà volevo fare arti marziali, ma i miei erano contrari, l'ho recuperato in seguito, questa passione l'ho recuperata. E quindi ho iniziato a far danza, poi un po' per gioco è diventata man mano più seria la cosa, finché sono andato a Roma all'Accademia Nazionale di Danza e da là ho cominciato a ballare. E poi un provino per caso, come sempre spesso succede, ci vuole tanta fortuna, credo. Il provino mi ha portato nel primo Chorus Line italiano nel 90-91 e da là ci sono poi passate. Ecco, tu, Andrea, purtroppo ti sentiamo piuttosto male. Tu hai imparato a cantare dopo, sapevi già cantare, ti sei preparato come attore più tardi, anche tu sei arrivato dopo, diciamo così, nel mondo del musical. Sì. Mi senti meglio adesso? Sì, adesso ti sento meglio, grazie. Sì, sono arrivato mentre ero in accademia a far danza, a studiare danza all'Accademia Nazionale di Danza a Roma. Cioè, lessi su un quotidiano di un provino, che era Chorus Line per Chorus Line, nel 90-91, e mi presentai dopo 3 giorni di dure prove. Devo dire, fu un provino bellissimo, anche le persone che non vennero prese comunque erano soddisfatte di aver almeno avuto la possibilità di dimostrare le loro qualità, e iniziai a far musical, e quindi da lì mi sono avvicinato al canto e alla recitazione. Il canto mi era molto più naturale, istintivamente. Mio padre, anche se solo per divertimento, comunque canta. Mio nonno era famoso in paese perché lui e mia nonna allietavano durante i lavori nei campi col canto, con la loro voce, quindi era una cosa evidentemente istintivamente. La recitazione è arrivata più avanti studiando, ed è quella forse che dovrò assolutamente lavorare di più, perché è l'ultima arrivata in ordine. Senti, hai ancora nel cuore, Francesco, il musical? Assolutamente sì, ti devo dire che tra tutti gli spettacoli fatti, forse Francesco e Priscilla sono i più di più belli, forse è riduttivo, però diciamo quelli che mi sono rimasti nel cuore, per tante linee, sì, nel cuore. Poi ognuno in realtà ha avuto un suo perché, mi ha dato tanto ogni spettacolo, e c'è qualcosa che mi lega a ogni spettacolo, sia esperienza in scena, sia persone con cui ho lavorato, conosciute. Però questi due sono stati abbastanza particolari. Allora chiediamo ai produttori di rimettere in scena Francesco il musical, che ormai non c'è. Lo vorremmo non so tutti. Se potrei rifar Francesco, però. Vabbè, però insomma, ci può fare anche un casting. Senti, invece, la cosa più difficile in Priscilla, nel tuo ruolo del papà, poi alla fine, che andrà a ripescare l'ex moglie e figli. Ma intanto il passaggio dalla santità alla drag devo dire che è stato abbastanza, abbastanza forte. E la cosa difficile personalmente che trovo in questo personaggio è che durante il viaggio deve comunque mantenere sempre bene in mente il qual è il suo obiettivo, sì, di andare dal figlio, e tra una scena e l'altra non c'è sempre lui come riferimento, quindi la storia un pochettino potrebbe perdersi, quindi il lavoro che devo avere io in testa, che devo fare, di avere sempre come obiettivo finale questo, e quindi qualsiasi cosa io faccia deve nascondere questa voglia, quest'ansia, questo nervosismo, questo piacere di andare a trovare la moglie e il figlio, considerando che le due mie compagne di viaggio, Bernadette e Adam, cioè Simone Leonardi e Mirko Ranù, non sanno della moglie e del figlio, quindi c'è un po' questa cosa. E tuo figlio non sa che ti metti una parrucca in testa per lavorare? Assolutamente, ecco. No, lo scoprirà verso la fine, ma il messaggio di questo spettacolo probabilmente lo dà proprio lui, che non importa cosa fai, come appari, l'importante è che tu ci sia e quello che sei, quindi è un po' uno spettacolo che parla di outsider. All'epoca era, credo venne fatta un po' la scelta di questo spettacolo su un cult, perché all'epoca era molto forte il problema dell'AIDS e quindi gay erano un argomento di cui parlare per fare sicuramente scalpore, quindi questo, però in realtà è una scusa per parlare di persone fuori e dire alla gente: guardate, non c'è bisogno di mettere le persone fuori dalla porta, bisogna conoscerle, capire chi sono personalmente e poi decidere, ma non ghettizzarle a priori. Grazie Antonello Angiolillo e complimenti per la tua interpretazione, voi, davvero. Buon lavoro. Però invitando oggi pomeriggio, noi siamo agli Arcimboldi. Infatti vi siete sovrapposti, perché la stava dicendo anche Antonello, l'avrei poi fatto io comunque. Grazie ancora, ciao, buona domenica. Ciao Antonello. Ciao, anche per congedarti. Io non ho tempo, ma lo faccio lo stesso, un minuto lo prendo. Perché io questo, abbiamo parlato di recitazione, di canto, però la danza. Cioè, oggi quanto è importante la danza in un musical. L'abbiamo lasciato un po' per ultima, però al suo... Direi che è molto importante, però dipende dal titolo, perché ci sono dei titoli ovviamente classici come, non so, Les Misérables, dove la danza non è importante appunto essere ballerini, anzi è molto importante essere dei grandi interpreti, quindi attori e cantanti. La danza però in Italia devo dire che in base alle scelte fatte dalle produzioni, cioè in base agli spettacoli che ci sono in scena, devo dire che la danza è presentissima negli spettacoli. E spesso è vero che le audizioni vengono affrontate in questo modo: prima si canta, poi si recita e poi si balla, ma poi alla fine la scelta veramente spesso viene fatta sulla danza, soprattutto per quanto riguarda l'ensemble, soprattutto per quanto riguarda alcuni ruoli dove la prestanza fisica sia come capacità sia anche estetica spesso è proprio fondamentale per la scelta di questo ruolo, e Priscilla ne è un esempio, nel senso che è un cast fatta di performer, un cast fatto di performer dove c'è tanta fisicità, c'è tanta capacità, ma è, infatti la cosa che mi fa più piacere quando la gente viene a vedere Priscilla è quando sento dire: non pensavo che in Italia esistessero performer così bravi, così belli, così completi, e sono... E invece ci sono. Oh, ecco, questa è la puntata di oggi, volevo proprio dire questo: andate a vedere i musical davvero, perché scoprirete dei grandi talenti in Italia che abbiamo e che finalmente possono essere sfruttati, perché il musical c'è, ecco, perché altrimenti direi una volta era diverso. La cosa con cui vorrei concludere, sì, è lasciarsi emozionare col musical, perché spesso oggigiorno ci facciamo emozionare poco, no? Cerchiamo altre cose per emozionarci, invece andate a teatro. Grazie Giuseppe Galizia, buona domenica, davvero. Buona domenica a tutti. Ci vediamo, cioè ti vedremo poi sul palco con la parrucca. Giochi e videogiochi. Torna la settimana del gioco in scatola. Oggi parliamo di giochi, ci sono i videogiochi, in effetti il Games Week a Milano, alla Fiera City di Milano, ma comincia anche la settimana del gioco in scatola. Tutta l'Italia è in gara per il titolo di città del gioco e fino al 18 novembre in tante città italiane si giocherà genitori e figli insieme ai giochi, giochi da tavolo proprio, insomma quelli di una volta. Informatevi poi nelle vostre città per capire dove ci sono le iniziative. C'è un sito che è staserasigioca.it. Io ho al telefono Ivano Zoppi, che saluto. Ivano Zoppi, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, presidente dell'Onlus Pepita, che è una cooperativa sociale che si occupa di progetti educativi in tutta Italia, perché voi avete fatto, avete chiesto quanto i genitori giochino con i figli e avete chiesto anche ai figli quanto loro giochino con i genitori, e le risposte non sono poi così vicine. Le risposte no, non sono vicine. Non sono vicine nel senso che i genitori giocano poco con i loro figli e i figli vorrebbero giocare di più con i genitori. Noi abbiamo visto questo, che il 53% dei genitori gioca meno di mezz'ora al giorno con i propri figli, e se contiamo che nella risposta gioco ci mettono stare davanti alla TV, ci mettono ti lascio davanti al videogioco, capiamo davvero quanto poco giochiamo insieme ai nostri figli. Ecco, la cosa curiosa è che se si chiede ai figli quanto i genitori giocano con voi, loro rispondono poco. Se invece lo chiedete ai genitori quanto giocate con i vostri figli, i genitori dicono tanto, per cui anche la percezione cambia. La percezione cambia, siamo impegnati a fare tante cose e crediamo che dedicare un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora al gioco con i nostri figli sia sufficiente. Non lo è, dal punto di vista educativo. Giocare con i propri figli è fondamentale, perché aiuta a costruire relazioni positive, aiuta a capire le regole, aiuta a stare bene insieme agli altri, prima di tutto stare bene in famiglia. Questo è davvero importante. Ecco, tra l'altro la maggioranza dei giochi che i genitori fanno con i figli sono quelli all'aperto. Sì, questo è un bene, nel senso che comunque portare i figli all'aperto, sappiamo bene, fa bene ai propri figli. Però ecco, quando siamo in casa siamo presi da mille altre cose e ci dedichiamo davvero poco al momento del gioco con i figli. Il momento del gioco, che ripeto, è fondamentale anche per costruire relazioni positive con i propri figli. Ecco, quanto piacciono i giochi in scatola ancora? I giochi in scatola piacciono tanto, perché comunque danno senso di gruppo, sono divertenti, ci sono continuamente nuove edizioni. Ed è bello ritrovarsi, soprattutto magari nei momenti in cui fuori fa freddo, ritrovarsi attorno a un tavolo e riscoprire, non so, giochi come Monopoli, che danno la possibilità di coinvolgere tantissime persone. Ecco, per cui insomma impariamo a giocare con i nostri figli, magari intorno a un tavolo, così si chiacchiera anche, si parla, e soprattutto poi il gioco insegna anche a capire le regole, perché la vita è fatta anche di quelle e bisogna saperle rispettare, no? Altrimenti non si va da nessuna parte, bisogna saperlo fare. Io ti ringrazio Ivano Zoppi, davvero, grazie. Insomma, buona settimana del gioco, davvero, grazie. Grazie a voi, buon gioco a tutti. Ve lo ricordo ancora, la settimana del gioco in scatola, tutta Italia in gara per il titolo di città del gioco. Vi ricordo il sito, che è staserasigioca.it, per vedere tutte le iniziative, partecipare, sono iniziative completamente gratuite che servono proprio a fare incontrare genitori e figli davanti a un buon gioco in scatola. Adesso sono le previsioni del tempo, poi ci sarà il nostro gastronauta e ovviamente Francesca Dragotto con Senti chi parla, e poi giocheremo con Miro in 24, saranno meno i minuti questa settimana, 800 24 00 24 per prenotarvi. Sono arrivati molti messaggi che riguardano il musical, ne volevo leggere uno in particolare. Dice: buongiorno, riguardo il prezzo del musical a Milano a 20 euro direi che non esistono. Invece sì, nel senso che ci sono tante promozioni, ci sono dei giorni in cui il prezzo è ridotto, come succede poi nelle altre città d'Italia. Faccio solo un esempio, ma Priscilla, prenotato prima a Roma, costa il 50% in meno, per cui semplicemente bisogna informarsi. È vero che all'ultimo minuto il prezzo così probabilmente non si trova, però ci sono anche giorni particolari in cui è possibile spendere meno, ma questo vale per il teatro in generale. Crema Novi, un'autentica specialità, con il 45% di superbe nocciole delle nostre colline. Vi presenta il gastronauta. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Buona domenica a tutti, buona domenica piovosa. È vero, succede che quando si finisce di recitare, e si finisce tardi, tra struccarsi, prepararsi, arriva mezzanotte, mezzanotte e mezza, l'una, l'unica cosa che si riesce a mangiare è una pizza. Sì, ti dirò di più, che poi parleremo di pizza, ma c'è un mio caro amico che si chiama Corrado Tedeschi, attore, il quale da anni mi sta invitando a fare una guida ai ristoranti, appunto, dove vanno gli attori il dopo cena, perché lui dice che ormai non si trovano quasi più e sarebbe interessante fare una guida per dire, beh, insomma, sono in giro per l'Italia, finisco alle 10:30, 11, posso trovare da mangiare. Credo che questo succede oltre che per il musical anche per gli attori di teatro. Bene, chiusa questa parentesi, hai ragione, la pizzeria arriva fino a tardi. Devo dire che le pizzerie in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni hanno avuto, come posso dire, c'è un grande ritorno, se ne parla, ma credo che quello che sta succedendo è un grande fuoco dentro alle pizzerie, guarda caso, un fuoco a legna, e nel senso che stanno migliorando, c'è, come posso dire, non di tutti ovviamente, ma c'è una ricerca di qualità, soprattutto c'è una ricerca, secondo me, del punto principale della pizza, la digeribilità, perché oggi più che mai io sento tantissime persone che dicono sì, ho mangiato un'ottima pizza, buonissima, ma santo cielo, per digerirla la sera, appunto, siccome di solito si va a mangiare non a mezzogiorno, ma si va a mangiare anche molto tardi, dopo il cinema, dopo il teatro, d'altro, il punto principale rimane la digeribilità. E devo dire che c'è un filone in questo momento di vivo, tra l'altro anche di polemiche, tra pizzaioli napoletani e il resto d'Italia, perché Napoli rivendica giustamente la nascita della pizza, da altre parti si sono sviluppate delle scuole di pensiero filosofico di pizza, a cominciare da Roma, andare nel Veneto ad altri, quindi c'è anche questa battaglia, questo sale, che secondo me rende molto vivo. Io credo che sempre di più ci sarà una grande qualità sulla pizza. Addirittura ti dico che il 3 dicembre, quando presenterò la guida dei ristoranti del Sole 24 Ore, per la prima volta premierò tre pizzerie che sono dentro da 5 anni alla guida, non è una cosa dell'ultima ora, e gli darò un premio perché sono, diciamo, all'insegna della grande qualità. Io credo, tra l'altro, che debba essere strenuamente difesa la pizza, perché la pizza è un prodotto made in Italy, è un prodotto italiano, anche se poi in giro per il mondo ci sono tantissime multinazionali della pizza che hanno invaso il mondo, però dobbiamo mantenerla sempre di più, anche ancorarla al territorio. Io credo che sia anche giusto mangiare delle pizze che hanno dei prodotti del proprio territorio, quindi salvaguardando Napoli, per carità, Napoli come capitale della pizza, come il movimento che ha dato vita in tutto il mondo alla pizza, però ci sono anche delle propaggini regionali che secondo me bisogna assolutamente rispettare. Ecco, senti, qual è il segreto della digeribilità della dell'impasto, in poche parole? Innanzitutto farina, impasto e soprattutto le grandi lievitazioni. Ecco, perché spesso non lievita abbastanza la pasta, questo è il problema. Molte pizzerie che fanno milioni, centinaia di pizze al giorno, non riescono a dare, come posso dire, un giro talmente importante alle loro pizze, altro hanno molti dei preparati e credo molti anche usano delle farine forse che non sono tra le migliori, quindi io credo che farina, sicuramente impasto, e diciamo importantissimo le ore di lievitazione. Ecco, c'è un modo per riconoscerla la pizza quando è sul piatto, per capire che abbia un impasto che così abbia subito una lievitazione lunga, oppure non c'è modo, se non quello di mangiarla e di capire quanto ci mettiamo poi a digerirla? Ma guarda, io sono molto così, molto allarmato quando vedo che nella pizza scivola il pomodoro o la mozzarella sopra, che diventa scivolosa e quindi stacca tutto il resto, non è ben amalgamata. E credo che quello sia uno dei motivi principali. Poi sicuramente, sai, ad occhio o così a naso è un po' difficile, probabilmente l'unica cosa è assaggiarla e capire notte, come passiamo la notte, quando ti rigiri e bevi litri d'acqua, allora, probabilmente c'è il segnale che quella pizza non era di chi. Ecco, quindi mettiamo una bella X e non ci torniamo più. Grazie Davide, ci sentiamo domenica prossima. Buona domenica e buona pizza a tutti questa sera. Grazie, non riusciamo a sentire il nostro Francesco Dragotto con Senti chi parla, ma la recuperiamo sicuramente la settimana prossima. È il momento invece di portarvi a casa il catalogo e il biglietto per la mostra di Miro a Genova. Miro in 24 minuti. Dovete cercare di associare la canzone che sto per farvi ascoltare a una delle opere di Miró. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. C'è Rita da Pisa, buona domenica Rita. Sì, buongiorno Stefano, come va? Bene, benissimo, grazie. Noi siamo sott'acqua. Ma tutti lo siamo, intanto approfitto anche per dire che un pizzaiolo, Raffaele di Como, dice certo che c'è modo di capire se una pizza è lievitata e poi gli chiederemo qual è. Allora Rita, che sì. Quadro è quello di Miró? Io provo, Sì. Donna nella via. Eccolo qua, Donna nella via, brava, giusto. Ce l'abbiamo fatta, Va bene. È la settimana scorsa che... Allora, per te il catalogo di Miró, Poesia e Luce, anche il biglietto d'ingresso della mostra a Genova Palazzo Ducale. Complimenti, ciao. Grazie tante. Grazie a te, Rita. Ecco allora un'altra canzone legata a un altro quadro, sempre di Miró, e vi aiuterò tantissimo perché possiate risolvere il quiz in modo molto facile. Chi seguirà la sua traccia si perderà nel cammino, nella purezza di una rosa o in solitudine di spino. Questa è una canzone brasiliana tradotta in italiano e interpretata da Ferrella Mannoia. Il titolo è Senza un frammento. Questo è il titolo. I frammenti, che cosa possono farvi venire in mente? C'è qualcosa che è fatta di tanti piccoli frammenti e quello è il titolo dell'opera di Miró che vorrei sentire da voi. 800 24 00 24 dopo il traffico. C'è Ivana da Parma. Ciao Ivana, buongiorno. Ciao, buongiorno. Io sapevo quella di prima. Però. Lo immaginavo, però insomma, cercherò di aiutarti un po', l'ho fatto prima, no? Questa canzone si intitola Senza un frammento, quella che abbiamo ascoltata. Sì. Io ho detto che c'è un genere di opere che sono composte da tanti frammenti. Quindi, secondo te, allora, come si chiama l'opera di Miró? Serie di costellazioni. Ah, mi è piaciuta l'associazione, però non è giusto. Non è Ivana, purtroppo no, ti devo salutare. Bene. Grazie però, okay, Ivana. Ciao. Mi dispiace. Ciao. Maria Stella, dalla provincia di Genova. Sì, sono io. Maria Stella, per te il catalogo della mostra e il biglietto d'ingresso, e ammesso che tu riesca a dirmi il titolo di quest'opera, dimmi. È difficile. Non perché... è difficile, è una parola sola. Pensa. Provo. Mosaico. Questo non era difficile per niente. No. Allora, per te, per te il catalogo della mostra e biglietto d'ingresso. Complimenti Maria Stella. Grazie. A te, grazie. Buona domenica, ciao. Buona domenica, grazie. Altra opera di Miró in questa canzone. Manca un po' Lucio Battisti, lo dico sinceramente. Insomma, adesso ha tanti anni dalla sua scomparsa, onestamente la sua voce, il suo modo di scrivere canzoni. A me personalmente manca un po'. Luisa, dalla provincia di Milano, ciao, buona domenica. Ciao. Ciao Luisa. Allora, questo è un vecchio successo di Lucio Battisti e si intitola L'interprete di un film. Allora, adesso vediamo un po' di arrivare. Anche in questo caso... L'opera di Miró che vorrei sentire da te è composta, il titolo è composto da una parola soltanto. L'interprete di un film è un... Chi è l'interprete di un film? È un... È un attore. È un attore, ecco. Un protagonista. È esatto. E l'attore interpreta che cosa in un film? Un... In generale, no? Un attore in un film interpreta che cosa? Un... Parte principale. No, ma interpreta un... Una parte. Fa un... Uno spettacolo. Non ci sono riuscito, Luisa. Io ci ho provato. Cosa devo fare? Vabbè. Grazie però. Ciao, grazie. Vediamo se Beatrice da Piacenza riesce a darmi la risposta. Beatrice, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buongiorno, buona domenica. Allora, questa è un'altra opera di Miró. Dicevo, come si intitola quest'opera di Miró? Ma un attore interpreta un ruolo. Secondo te, quindi, il titolo dell'opera è Ruolo? Ruolo? No, cioè non è giusto. Però, dicevo, non è ruolo. È qualcosa... guarda che è facilissimo, ma non è ruolo, purtroppo. Grazie, niente. Beatrice. Ciao, mi dispiace. Prego, ciao. C'è Michele da Genova. Pronto, Michele? Pronto. Eccoci qua. Allora, ma in, proprio in modo molto generico, no? Un attore in un film interpreta un... personaggio? Certo che i titoli delle opere di Miró sono sprecati, Mosaico, personaggio, anche perché la maggioranza delle opere è senza titolo, per cui trovarli anche non è affatto semplice. Ed è proprio personaggio, però, la risposta giusta. Ti porti a casa anche tu il biglietto per Palazzo Ducale, visto che sei a Genova, quindi sarà ancora più facile andarci. E soprattutto, è decisamente sì, e soprattutto poi il bellissimo catalogo della mostra. Grazie Michele, buona domenica. Grazie a voi. Ciao, grazie. Abbiamo tempo di sentire anche un'altra canzone. Ma non gli rimane proprio niente in mano, ma non gli rimane proprio niente in mano. Lorenza da Genova, buongiorno. Ciao Stefano. Spero che tu abbia apprezzato molto questa canzone di Gino Paoli. Gino Paoli, sì, sì, sì. Lui ha ripetuto tantissime volte in questa canzone il titolo di quest'opera di Miró. L'ha detto tante, tante volte. E quindi il titolo è... Hai sentito la canzone? Sì. Di cosa sì. parla? Lui diceva c'è un cacciatore di sogni, ta ta ta ta ta. C'è chi caccia, ta ta. Si intitola Cacciatore di sogni, questa canzone. Dai, Lorenza, è facile. Hai 3 secondi, uno, dammi la risposta. Non lo so, mi dispiace. Anche a me, Lorenza, mi dispiace proprio tanto. Ciao, buona domenica. Ciao, è la canzone che resterà per la settimana prossima. Avete capito sicuramente il titolo. Grazie a tutti, a Giuseppe De Luca redazione, l'assistenza di Nadia Zammitti, Paola Pietro Lacorte in regia. E a voi, ci sentiamo domenica prossima. Buona settimana da Stefano Gallarini. Oh!